get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte quante, ben sintonizzate sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Quella che state ascoltando, scusate il repertore e la mezza influenza, è la nostra 228esima trasmissione. No, cambia microfono che non si sente. Allora, cambio microfono. Ecco. Ora mi sentite? Sì. Ok. Allora, finora abbiamo voluto scherzare, quindi buonasera a tutte e ben sintonizzate sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Quella che state ascoltando è la nostra 228esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto all'interno del martedì femminista e lesbica autogestito. Oggi a farvi compagnia sarò io, che sono Lucilla Raffreddata, poi c'è Caterina al mixer, eccetera, ciao, eccetera, e Rosina The Voice, che sta per prendere l'influenza pure lei, essendo al fianco di Lucilla. Lucilla, io non ti sento però. www.radioondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clr.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Questa sera vi parleremo di un convegno che si è tenuto a Firenze il 6, il 7 e l'8 novembre scorsi, appena passati, a cura dell'associazione Azione Gay e Lesbica, da un titolo molto interessante secondo noi. Il titolo è questo: Una ribellione necessaria, lesbiche, gay e trans, 40, 30 e 20 anni di movimento. Ci collegheremo con una compagna di Azione Gay e Lesbica e poi vi leggeremo il nostro intervento che abbiamo fatto in quell'occasione, affrontando un tema difficile e abbastanza, anche se all'interno del movimento può sembrare scontato, e cioè spiegare le ragioni del nostro antifascismo in quanto lesbiche. Adesso, se ci riusciamo, vi facciamo sentire un pezzo musicale. E se ci riusciamo, facciamo sentire Le Chicca la Luna con il brano La Luna. Mi corazón vibra. E allora rieccoci qui nuovamente in diretta per parlare del convegno di Azione Gay e Lesbica che si è tenuto appunto a Firenze il 6, il 7 e l'8 di novembre, al quale Lucilla ha partecipato come nostra emissaria, come emissaria del CLR con un agente speciale a L'Avana, con un documento sul perché appunto le lesbiche non sono fasciste, perché noi lesbiche del CLR non siamo fasciste. Allora vi leggeremo intanto il documento invito, chiamiamolo così, che ha appunto invitato al convegno di Azione Gay e Lesbica. Quest'anno ricorre il ventennale della nascita del circolo che oggi, dopo una ricca e variegata storia, si chiama Azione Gay e Lesbica. Sono stati 20 anni di presenza in città e nelle periferie circostanti, di costruzione di visibilità, cultura e politica altre, oltre l'obbligo dell'eterosessualità, oltre l'isolamento, oltre lo scontato, il dovuto e il precotto, oltre i muri dell'identità, oltre i diktat del Vaticano e della omologazione. Vogliamo sottolineare questa tappa importante del percorso di Azione Gay e Lesbica con un convegno che dia valore e spazio alla memoria, sia sul piano documentaristico e testimoniale, visto che i movimenti, quello lesbico, gay e trans in specifico, hanno sempre difficoltà e ostacoli nell'attuarlo, sia sul piano della iniziativa culturale e politica nell'attualità. Questo convegno vuole mettere a fianco 3 grandi inizi, tutti fondamentali per i nostri percorsi politici, 3 inizi che nelle differenti scale di importanza si intrecciano e si alimentano a vicenda. Stiamo parlando ovviamente del 1969, la rivolta di Stonewall, del 1979 quando nacque appunto il primo gruppo lesbico fiorentino e nel 1989 quando nasce appunto il Circolo Azione Gay e Lesbica. Il 2009 è innanzitutto il 40° anniversario della rivolta di Stonewall. Il 28 giugno del 69 a New York, lesbiche, gay e trans presenti nel locale Stonewall Inn, nel Greenwich Village, si ribellarono alla ennesima incursione persecutoria delle forze dell'ordine, inscenando una rivolta di strada che durò 3 giorni e 3 notti. I movimenti LGBT di tutto il mondo oggi si riferiscono a quella data come ad un momento fondante, la nascita dei movimenti moderni, dopo che quelli d'inizio del Novecento erano stati spazzati via dalla furia nazista. Fu la nascita del concetto di orgoglio, di Pride, che in tutto il mondo celebriamo ogni anno. Il vento di Stonewall in quegli anni soffiò anche in Europa e pochi anni dopo, nel 1972, a Sanremo, si ebbe la Stonewall italiana, la prima manifestazione LGBT, una protesta davanti a un convegno di sessuologi che studiavano la cura dell'omosessualità. Il nostro convegno vuole in primo luogo ripercorrere entrambi questi inizi attraverso testimonianze di attiviste e attivisti che hanno vissuto quegli anni e proiezioni video che possano aiutarci a ricostruirli. Nel 1979, 30 anni fa, a Firenze invece, nacque una prima organizzazione lesbica, la Linea Lesbica Fiorentina, un primo gruppo politico dove le lesbiche della nostra città si incontrarono, si confrontarono e gettarono le basi per un'identità politica collettiva che ancora oggi prosegue il suo percorso, dopo 30 anni di presenza e di contributo al pensiero e alla pratica femminista e di movimento più generale. Questo anniversario sarà la seconda tappa del nostro convegno, chiamando a contribuire le attiviste di allora e di oggi. La terza tappa sarà il ventennale del Circolo Azione Gay e Lesbica, una sessione che potremmo intitolare Traslocando, non solo per dare conto delle numerose sedi dove in vari quartieri della città ha preso corpo la presenza dell'associazione, ma anche dei numerosi percorsi che Azione Gay e Lesbica ha vissuto e contribuito a costruire, dalla nascita come collettivo nel contesto del movimento studentesco della Pantera all'adesione ad Arci Gay, Arci Lesbica e poi alla stagione che tuttora prosegue dell'autonomia politica nella rete Arci. Chiuderà il convegno una tavola rotonda di confronto sulle politiche LGBT attuali a cui parteciperanno realtà italiane che hanno rapporti di collaborazione con il circolo. In un momento in cui nel nostro paese la memoria sembra essere un valore e una pratica in parte trascurati, riteniamo invece fondamentale ricomporre fili che possano aiutarci a leggere il presente e a costruire nuovi percorsi di cittadinanza e di liberazione per tutte e tutti. Questo è il documento di invito al convegno che poi si è articolato in un programma. Sì, dove sono state 3 giornate, tutte interessanti, con questo aspetto delle testimonianze. Quindi sono stati proiettati dei video, c'erano delle mostre, tra cui una del Fuori, poi c'era quella di Archivia, sulle varie riviste lesbiche che negli anni si sono succedute. C'era una bellissima mostra sul corpo lesbico di Lore Barbieri, insomma tante cose interessanti e dulcis in fundo, se così vogliamo dire, questo elemento di una tavola rotonda finale dove sono stati invitati e invitate le varie situazioni associative che hanno avuto delle collaborazioni con Azione Gay e Lesbica e che hanno dato conto di quello che è stato definito e più volte ricordato come le contaminazioni che gruppi diversi, soggetti, soggettività diverse si sono scambiate in questo arco di tempo, in questi anni. Ma questa storia della memoria storica l'andremo a ripuntualizzare un poco più in là. Adesso magari, sempre con la bravura di Caterina, avremo un pezzo di Dolce Nera che ha pescato... Eh? Resta come sei, io vorrei restare come sono, ma non in questo momento. Non è che tu sia un granché. Mi sento, ecco, ha detto lei che non sono un granché. Io non vorrei giudicare me stessa, sembrerebbe inopportuno. Ecco. Ti giudichiamo noi, non c'è va problema. Bene. Allora, Dolce Nera. Guarda Laura, che non devi avere più paura, cosa provi per la tua migliore amica, quel tuo avere in gran segreto un'altra vita. Guarda Laura, che tua mamma non l'ha ancora capito, e chi c'è chiusa dentro di te, chi è l'altra parte di te che se ne sbatte del giudizio di tutta questa gente che ti dice prepotente. Tu sei diversa, tu sei diversa, tu sei diversa, tu. Gay e lesbica, non si sente? Si sì, sente? Sì, sì, sì. Ah, con una compagna di Azione Gay e Lesbica che è stata anche una delle promotrici appunto del convegno che noi conosciamo perché abbiamo fatto varie iniziative con lei, non soltanto all'interno di Azione Gay e Lesbica, poi magari lei quando la sentirete la riconoscerete. Intanto ve la annunciamo, un po' di suspense. Ciao Elena, ci sei? Ciao, buonasera. Buonasera a te. Senti, noi abbiamo presentato, leggendo poi proprio il vostro invito al convegno, con le motivazioni che voi avete dato, però vogliamo sentirlo meglio dalla tua viva voce. E quindi com'è nata l'idea di questo convegno? Ma senti, l'idea del convegno è nata, vabbè, quest'anno ci siamo rese conto, cioè, insomma, qualche mese fa, che Azione Gay e Lesbica come esperienza, che poi è molto cambiata negli anni, nelle modalità, nelle pratiche e anche persino nel nome, faceva 20 anni, perché Azione Gay e Lesbica nasce come collettivo all'interno dell'occupazione studentesca della Pantera e quindi a fine 89. Uh-huh. E quindi abbiamo pensato che forse era il caso di sottolinearli questi 20 anni. E poi insomma, parlando, un convegno con un taglio storico ci è sembrato la cosa più più adeguata in qualche modo. La strutturazione poi invece su 3 giornate e su 3 anniversari, perché come avrete già ricordato poi sì, in questo convegno non si è parlato solo di questi 20 anni da Azione Gay e Lesbica, ma anche dei 30 anni, diciamo, dalla nascita del movimento delle lesbiche a Firenze e di 40 da Stonewall. È nata, diciamo, con la relazione con altre con altre lettere, con altre donne, con altre compagne fiorentine, che diciamo con cui lavoriamo su tante cose, ma che hanno anche percorsi diversi dai nostri. Parlo soprattutto di Nerina. Sì, di Nerina Milletti. Di Nerina Milletti, che vabbè, è la curatrice in questo momento di L4L.com, insomma, che è una pagina autogestita di cultura e di cultura e politica lesbica, ma che è insomma un attivista del movimento delle lesbiche da molti anni, e anche con Liana Borghi, che è ugualmente un attivista del movimento delle lesbiche da molti anni, entrambe passate dalle realtà del lesbofemminismo fiorentino di fine anni 70 e inizio anni 80. Diciamo, dalla relazione con Nerina è nata l'idea di ricollegare Stonewall, la rivolta di Stonewall del 69, perché lei notava che in Italia questo 40° anniversario, intorno al quale si sono visti grandi interventi culturali in varie parti del mondo, in Italia di fatto è passato abbastanza in silenzio, non ci sono stati grandi riconoscimenti, insomma, no? Non ci sono stati né grandi riconoscimenti né grandi eventi organizzati dal movimento stesso rispetto a questo quarantennale. Dall'altra parte, appunto, è venuta in mente questa concomitanza del fatto che il primo gruppo di lesbiche a Firenze nasceva appunto nel 79 e quindi era un trentennale. A noi, a me, è sembrato che mettere insieme queste tre date fosse particolarmente significativo da tanti punti di vista, perché in qualche modo anche per la storia d'azione gay e lesbica, se non so se è tutto frutto della mia elucubrazione, ma penso di no, sinceramente. Insomma, certo. Da una parte Azione Gay e Lesbica si riconosce in quel percorso di Stonewall, insomma, della ribellione e della ribellione di piazza. Infatti, dall'altra, noi lesbiche che siamo cresciute dentro Azione Gay e Lesbica abbiamo da una parte un grande debito di riconoscenza, dall'altra una forte relazione con il lesbismo separatista. E infatti questa è una domanda che ti vorremmo fare dopo, meglio. Io ti vorrei interrompere un attimo, perché Prego. È proprio sul titolo. Il titolo a noi è sembrato molto interessante e molto accattivante in un momento come questo, no? Perché avete dato questo titolo a questo convegno, di memoria e storico, una ribellione necessaria a qualche aggancio con il presente? Io direi di sì. Comunque, intanto per riconoscere l'idea, insomma, chi ne ha, è un'idea di Nerina, quello del titolo, una ribellione necessaria, però devo dire che appena ce l'ha proposto a me e anche alle altre, insomma, è piaciuto subito e l'abbiamo trovato estremamente calzante. Insomma, abbiamo in qualche modo la consapevolezza che i nostri percorsi di liberazione nascono necessariamente da un atto di ribellione. Ecco. Peraltro, sia quelli collettivi che quelli individuali, io credo che anche nelle nostre vite è la ribellione all'eterosessualità obbligatoria che poi ci dà la possibilità di poter fare dei percorsi di liberazione e di autodeterminazione. Certo. E la stessa cosa vale sul piano collettivo dei nostri movimenti. Certo. E quell'aggettivo necessario, secondo me, identifica bene il fatto che in qualche modo, no, c'è una parte del movimento GLBT che io faccio fatico anche a chiamare movimento, sinceramente, che continua a tacciare di ribellismo, di estremismo, di radicalismo fino a se stesso tutte le altre parti. Sì, tutte le altre realtà, diciamo, no? Le altre situazioni. Tutte sì, le altre modalità, le altre pratiche, gli altri posizionamenti, certo. Eccetera, eccetera. Allora, dire una ribellione necessaria significa dire la nostra radicalità, la nostra ribellione non è fine a se stessa, è addirittura necessaria, non c'è un altro modo. Certo, certo, siamo assolutamente d'accordo. Abbiamo detto appunto che questo titolo era assolutamente accattivante. Posso aggiungere una... Ciao Elena. Ciao. Rosina. Questo titolo mi ha fatto venire in mente un vecchio testo di Teresa Noce che si chiamava Rivoluzionaria di professione. Allora, la ribellione necessaria io credo che si debba trasformare anche in una rivoluzione professionale. Tu che cosa ne pensi? È molto difficile parlare di rivoluzione in questo momento, fra l'altro insomma Lucilla lo sa, il convegno si è anche parlato del... Certo. Del perché non si è usata la parola rivoluzione ma si è usata quella ribellione, è molto difficile parlarne perché a me sembra parecchio lontana questa rivoluzione. Anche a me. Era per quello che era necessaria. Però sì, è chiaro che è un orizzonte necessario. Certo. Senti, Elena, un'altra cosa. Quando noi siamo venute a Firenze, non abbiamo più potuto assistere a qualcosa che invece era avvenuto qualche giorno prima, e cioè il battage pubblicitario che avete fatto e quindi la presenza e la presa di Firenze con il vostro convegno. Vuoi dirci qualcosa a questo proposito? Sì, è stato un investimento molto grosso da parte del Senegal Elettrica, da tutti i punti di vista, sia di energie che di creatività, che anche di soldi, cioè nel senso che erano in qualche modo messi da parte da tempo per poter reggere insomma questo tipo di questo urto. Perché c'è stata una campagna di manifesti molto ampia anche nella sessione pubblica, anche perché Firenze è una città dove le sessioni nostre militanti fanno veramente in pochi spazi, perché diciamo che c'è una repressione amministrativa piuttosto importante. Sì, sì. E quindi insomma abbiamo avuto accesso alle bacheche che ci sono in centro per i manifesti, che sono molto visibili, e abbiamo soprattutto fatto una campagna di promozione sugli autobus, ecco, pubblici, dove appunto campeggiavano delle scritte, c'era la foto che poi era la foto lavorata, diciamo, che era il in qualche modo l'immagine di tutto, sì, il convegno. Fianzo, il manifesto, eccetera, una foto di una manifestazione con lo striscione d'azione che è lesbica davanti, peraltro era un Pride di Roma, la foto che è stata insomma rielaborata per questo convegno. C'era quindi questa foto, quindi veniva fuori la scritta azione che è lesbica piuttosto grande, ed era significativamente su uno striscione in un corteo. E poi c'era scritto da 20 anni di movimento a Firenze, e poi c'era la pubblicità del convegno. Oltre a questo abbiamo avuto degli spazi radiofonici con degli spot, purtroppo nell'area fiorentina e toscana non c'è una radio gestita come Radio Onda Rossa, quindi insomma abbiamo dovuto utilizzare gli spazi che ci sono, insomma, non quelli commerciali, però insomma non è lo stesso tipo di comunicazione in qualche modo, però anche lì in maniera piuttosto forte. Devo dire che invece per quanto riguarda la stampa mainstream, se si vuol dare anche una nota non praticamente positiva, ha reagito come sempre, cioè nella più completa indifferenza, facendo qualche articoletto insulso. Tanto per cambiare. Tanto, sì, tanto su quello non avevamo dubbi, non insomma. E veramente niente più. Mentre poi l'altra forma di comunicazione con la città è stata quella a cui avete partecipato anche voi. Sì. E cioè è stata eccezionale, devo dire. La passeggiata serale. Comunicativa, a un certo punto, come l'avete chiamata voi? Sì. A un certo punto ci siamo resi conto sostanzialmente che il convegno, ora per chi conosce la geografia fiorentina, il convegno è la piazza dei Ciompi, quindi in centro, diciamo, nella zona di Santa Croce. E poi si faceva una scena nella sede di Azione Gellese, che invece è in San Frediano, a Porta San Frediano. E quindi abbiamo pensato che era un'ottima occasione per attraversare il centro di Firenze, che, come potete immaginare, è zona piuttosto off limits per qualunque tipo di corteo, che ovviamente molto difficilmente viene autorizzato qualunque cosa che possa passare da Piazzella Repubblica o da Via del Corso o da vicino il Duomo, eccetera. E quindi niente, abbiamo costruito, insomma, diciamo, questo piccolo momento di visibilità in città, che appunto non abbiamo chiamato corteo sostanzialmente perché non ci venisse vietato, certo. E quindi poi per non avere il problema di avere un corteo vietato e dover in qualche modo reagire a questo, eccetera eccetera, l'abbiamo chiamata passeggiata comunicativa. E questo in qualche modo è stato, cioè nel senso che poi non ci siamo preoccupati dei numeri, in 300 o 400 persone abbiamo attraversato il centro di Firenze facendo slogan con i fiati sprecati, che è una banda di strada fiorentina. È stato anche molto divertente. Sì, assolutamente, assolutamente. Per cui che la città la vive, o come me l'ha vissuta, attraversare il centro delle vetrine e delle botteghe in qualche modo finalmente a modo nostro, è stato sinceramente abbastanza di soddisfazione. Sì, infatti. Senti Elena, ti vogliamo sfruttare ancora un po', ritornando sulla questione della memoria. Sì. Allora, io non so se tu in particolare hai il pallino della storia oppure ce l'abbiamo tutti, è una cosa collettiva che sta avvenendo adesso come una forma di coscienza, insomma, di ritorno di coscienza. Però io so che noi sappiamo come CLR che non è la prima volta che tu partecipi ad operazioni di ricostruzione attraverso testimonianze, e ci riferiamo per esempio al libro Fuori della Norma, che peraltro è stato curato tra le altre cose da Nerina Milletti, e al quale tu hai partecipato, e quindi evidentemente questa storia della memoria, della ricostruzione storica, in qualche maniera ti appassiona. Allora, perché in questo momento della politica che è un momento di revisione, no? della memoria storica, almeno per quello che a noi sembra, perché è importante invece avere stare attente e attenti alla storia, alla nostra storia, alle nostre radici, non per fare appunto radici contachinti eccetera, però insomma per ripristinare una corretta interpretazione eccetera, no? Pensiamo noi, ma perché per te, per voi è stato importante questo discorso attraverso questo convegno, e per te in particolar modo, perché vedo appunto che non è la prima volta, no? No, direi che si potrebbe parlare di memoria necessaria in qualche modo. Esatto, come la ribellione uguale. Come la ribellione, e questo, insomma, i motivi sono tanti. Uno ovviamente è quello del revisionismo, ma più in generale c'è anche, come dire, una perdita di coscienza, di una memoria collettiva, che per tanti anni in questo paese, in tanti settori sociali, c'è stata la memoria collettiva, la memoria delle lotte sociali, la memoria appunto di cosa è successo prima e di come siamo arrivati a vivere quello che si vive, che in questo momento invece a me sembra che venga sempre più spezzata, e questo non solo per le lesbiche, è purtroppo un fenomeno molto più generale. Se ti posso interrompere un attimo, quando ero bambina io ricordo nel Giurassico, come dice Rosina, però insomma mi ricordo che sulla storia partigiana e le date canoniche, diciamo così, della fondanti, no? La storia dei partigiani, queste cose venivano, cioè, c'erano proprio delle ricorrenze che venivano rispettate. Io mi ricordo bambina, venivo portata dai miei genitori, da mio padre, insomma, cosa che non succede più, insomma. Ma le stesse amministrazioni facevano iniziative. Venivano portate le scuole, mi ricordo i tempi del liceo, no? Io venendo da Grosseto, c'erano i martiri di Noccioleta, e venivano portati i pullman degli studenti il giorno dove c'era la commemorazione, insomma, con un discorso di educazione alla memoria, no? E alla sì, coscienza. Certo, una memoria anche che era molto più viva, insomma, poi sì. Il problema rimane anche sempre quello di costruire una memoria che sia anche in qualche modo viva, presente, che sia nelle lotte, nei percorsi, che non sia... ho sentito uno strano rumore, ci siete ancora? Sì. Sì, ci siamo. È che la trasmissione è un po' disturbata in effetti, ma anche noi siamo disturbate, per cui lo sai, ci conosci. No, non volevo rischiare di parlare 10 minuti da sola. No, stai tranquilla, ti ascoltiamo. Credo che il problema sia molto grosso, per quanto poi riguarda il lesbismo in particolare. La necessità della costruzione di una storia collettiva, di una memoria condivisa, è assolutamente evidente, perché sappiamo tutte che la prima forma di oppressione, di repressione delle leggi è la cancellazione. Certo. E quindi il contrario della cancellazione è la memoria. Certo. Quindi per questo io ho partecipato anche con molto entusiasmo al progetto di Nerina, che poi ha dato vita Fuori dalla Norma, in cui io ero anche un outsider, insomma, perché non sono una storica di professione. Certo. Appunto, non ho titoli accademici, ho solo passione e entusiasmo, insomma, per spendermi in questo tipo di progetto, e in particolare io lì ho lavorato a un articolo su le lesbiche, testimonianze di storie di vita di lesbiche sotto il fascismo, insomma negli anni del ventennio, e credo che sia particolarmente importante da due punti di vista: uno appunto per la costruzione della nostra storia, e due anche perché io credo che sia molto importante articolare un discorso antifascista che renda sempre esplicito l'antisessismo come certo. un inscindibile all'antifascismo, insomma. Certo. Questo questo nostro antifascismo deve necessariamente essere declinato, deve esserlo in maniera esplicita, perché l'antifascismo vive, deve vivere nelle nostre lotte, e lo può fare solo se non è ovviamente un imbalsamare del passato, di un certo. passato patriarcale, eccetera. Assolutamente, eccetera. Assolutamente. Dall'altra parte, per quanto riguarda questo convegno, e secondo noi è stato importante mettere in gioco, insomma, questo lavoro sulla memoria, anche perché in qualche modo ha dato spazio ad alcune espressioni dei movimenti gay, delle lesbiche e delle trans che in questo paese sono alquanto dimenticati. Certo. Anche viventi, insomma, non certo, è certo, che... anche viventi, assolutamente, sì. se si guarda tutte e tre le giornate, di fatto hanno dato spazio, anche la prima di Stonewall. Stonewall, io non so bene perché, però in Italia non è questo evento poi così ricordato. Noi scendiamo in piazza per il Pride, ma se andiamo a chiedere, io credo, temo, alla stragrande maggioranza di scendere in piazza per il Pride perché si celebra il Pride, io credo che non lo sappia. Sì. Credo sì. che faccia anche scomodo a certe parti del movimento ricordare che i nostri movimenti sono nati con una rivolta contro la polizia. Certo. E quindi credo che invece sia importante... certo. dar voce a questa cosa. Certo, con i tempi che corrono, c'è dentro il movimento c'è anche Italo e compagni, quindi sappiamo. Te li raccomando. Poi c'è gli Italo in giacchetta e cravatta, che a volte sono anche più, certo. più pericolosi di quelli con le magliette nere. Esatto, almeno, sì, assolutamente. Assolutamente. E ugualmente per quanto riguarda il Stato, la mattina la parte, diciamo, sul movimento che si autodefiniva frocio degli anni 70, che è molto diverso dal movimento gay maschile di oggi. Certo. Perché quello era dirompente, era di rottura. Era di rottura e era la decostruzione del maschile. Sì. Era il discorso di Mario Mieli, era altro, insomma. Sì, sì, assolutamente. È uguale sopra il pomeriggio, insomma, tutta la parte dedicata al movimento lesbico separatista, al movimento lesbo femminista, insomma, di fine anni 70, inizio anni 80, io credo che oggi sia particolarmente importante costruire memoria su un movimento che esiste ancora, voi ne siete, insomma, una testimonianza. Una reliquia. Evidente, una reliquia. Ma che spesso viene tralasciato. Certo, certo. Nelle ricostruzioni nelle ricostruzioni storiche, mentre per me e per noi, per me personalmente, per esempio, è stato anche l'accesso al pensiero femminista, cioè io certo. sono arrivata al pensiero femminista attraverso le riflessioni e la relazione con le leggi del lesbismo separatista. Certo, e infatti qui ti facciamo un'ultima domanda, che è quella proprio sul separatismo, perché durante tutto il convegno, almeno nelle due giornate in cui siamo state presenti noi, quello che noi abbiamo sentito il separatismo molto presente, cioè nominato non solo, ma è la pratica proprio quella che veniva fuori, no? E da alcune relazioni, naturalmente, quelle a cui hai fatto riferimento, per esempio sul movimento fiorentino, che era lesbo separatista, lesbo femminista separatista, ma anche da alcune pratiche a cui tu ed altre di Azione Gay e Lesbica facevate riferimento proprio rispetto alla vostra storia e al significato, insomma. Hai già parzialmente risposto, però quello che ti volevamo chiedere ancora più chiaramente è: ma per te che significato ha il separatismo? Tu che cosa pensi del separatismo? Io del separatismo penso che sia una pratica politica non solo condivisibile ma anche necessaria per la lotta al patriarcato e all'eterosessismo. Quello che so è che nella mia vita le occasioni del le occasioni in cui abbiamo costruito insieme a soggettività lesbiche separatiste, mi riferisco per esempio alle settimane lesbiche degli anni 90, sono state per me grande occasione di crescita non solo individuale ma collettiva, e credo che questo faccia ampiamente parte del mio percorso e che in qualche modo ho riportato e ho, insieme insomma abbiamo incrementato anche per esempio quello che è stato per un paio d'anni il movimento che poi è stato chiamato suo movimento femminista e lesbico, la grande manifestazione del 2007 poi quella del 2008, in cui la pratica separatista è stata spesa in grandi cortei di piazza con grandi discussioni, ma in qualche modo in piazza se ne sono viste, se ne è vista la forza. È certo. Bene Elena, allora noi intanto ti ringraziamo e possiamo dirvi che non so quando, ma speriamo molto ci saranno gli atti. Sì, e infatti era questo. Noi volevamo concludere e salutarti proprio dicendoti a presto gli atti, perché le testimonianze erano tutte molto interessanti e quindi insomma ci piacerebbe poterle divulgare, leggerle, eccetera. Allora, a presto sentirci noi e un abbraccio da tutto il CLR. Vi ringrazio e buona trasmissione. Grazie. Ciao Elena. Ciao. Allora, dunque, Caterina mi dice andiamo Mariella con un Nava, pezzo, Mariella Nava e Tosca con La Differenza. Ma diversi da chi? Via. Tuona con il sole sopra un'amicizia amore, la dolcezza che vi muove, piano le carezze piove. Piove lacrime e veleno, dimmi amore dove andremo, e lei giura seno a seno, sotto un cielo agli altri osceno. Occhi dietro a una finestra, ma che storia disonesta, come un'ombra sulla vita, la terra trema inorridita, ma è una storia come tante, un corpo uguale a un altro amante, amarsi dentro ad un riflesso, toccarsi nello stesso senso. E non ve la tolgo del tutto questa canzone, ve la lascio di sottofondo, è soltanto che devo leggere una cosa importante. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR. Abbasso un attimo la musica di sottofondo, sennò non si riesce a capire niente. Allora, dicevo, anche tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22 e oggi un pochettino di più, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 6864 201. Questo è un telefono fax e segretaria telefonica. Oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale delle della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email contatti@clrbp.it e il nostro sito web www.clrbp.it. Per quanto riguarda invece il numero per gli SMS, ci stiamo organizzando ancora, non abbiamo ripristinato, non ce l'abbiamo a disposizione, un po' di pazienza, scriveteci una mail. E anche per oggi comunque aspettiamo i trillini che sono sempre graditi e ripasso la parola alle compagne. Allora ne leggiamo un pezzettino per volta, un pezzettino per volta, un pezzettino per uno, voglio dire io e Rosina, e questo è l'intervento che avevamo preparato per Azione Gay e Lesbica, per l'iniziativa appunto La Ribellione Necessaria, il convegno voglio dire, e alla richiesta di Elena che ci aveva fatto di parlare di lesbismo e antifascismo. Allora, vogliamo partire dalla definizione di fascismo che dà il Devoto Eoli e come ho detto io, l'ho letta io a Firenze, segnatevela perché probabilmente ben presto la cambieranno, ed è singolare maschile, dottrina e prassi politica fondata sulla indiscriminata affermazione di motivi nazionalistici ed imperialistici, sulla presunta loro sufficienza a superare ed armonizzare conflitti economici, politici e sociali e sull'imposizione di principi gerarchici a tutti i livelli della vita nazionale. Un'estensione della definizione è, due punti, qualsiasi concezione della vita politica basata sull'uso indiscriminato della violenza e della sopraffazione. Vai, Rosy. Al di là di questa definizione, noi riteniamo che qualsiasi società del primo, secondo e terzo mondo sia organizzata sulla base dello sfruttamento di un genere sull'altro e dunque tutte le società sono sessiste. Il sessismo è il padre, e non madre, naturalmente, di un'altra serie di ismi: razzismo, fascismo, totalitarismo, segregazionismo, colonialismo, schiavismo e via discorrendo. La maggioranza di questi ismi colpisce le donne prima ancora che gli uomini. In tutte le società le donne sono sfruttate, segregate, abusate fino all'utilizzo finale. Ovviamente le modalità cambiano a seconda delle diverse culture. Il fascismo è l'aspetto più becero del sessismo, la maschera più brutale dietro la quale si nasconde il patriarcato che talvolta usa il bastone e tale altra la carota. Poi quel bastone in alcuni casi diventa manganello, olio di ricino, stupro collettivo, etnico, di branco e militare. E militare, ho perso il... dov'è? Poi quella carota, scusate, in alcuni casi diventa la mistica della maternità, del matrimonio, del bel corpo, dell'illusione del facile guadagno, facendo l'accompagnatrice, ma sempre titillando un papi o un altro maschio di turno, sempre a disposizione degli scambi tra uomini. Oppure diventa un'adesione acritica alla mistica della famiglia. Quella famiglia, vi ricordiamo che ora proprio nel Foggiano i quattro ragazzi di buone famiglie, bravi ragazzi, tutti minorenni hanno stuprato una ragazza di 14 anni. Sì. La carota, così come il bastone, serve a rendere la donna oggetto e mai soggetto. Detto questo, dove ci collochiamo noi lesbiche? Noi apparteniamo al genere femminile pur non essendo donne. Wittig Docet. Ora, qui un giorno vi leggeremo anche questo bellissimo documento di Wittig, dove dice appunto che la lesbica non è una donna. Non vi anticipiamo niente. In tal modo, scardinando l'ordine dato, e quindi risultiamo profondamente eversive. Uno dei principi che sta alla base del sessismo patriarcale e che il fascismo difende a spada tratta è l'eterosessualità obbligatoria, che impone a donne e uomini un solo modo di sentire, di desiderare e di essere. Questo sistema è dotato di una serie di strumenti di cui la cellula familiare è la massima espressione. All'interno di questo nucleo le donne sono funzionali al sistema, perpetrando la cultura dominante e il pensiero unico che le obbliga a replicare e a replicarsi. Non si spiega perché le donne così direttamente colpite siano le sostenitrici indefesse di questa forma di sfruttamento, se non leggendo la cultura dominante attraverso la lente delle lusinghe e delle intimidazioni che le obbligano a questa forma di schiavitù condizionata. Le lusinghe sono rappresentate, come abbiamo già detto, dalla mistica del matrimonio e della maternità che dice alle donne: siete preziose, siete belle, siete importanti, è grazie a voi che la specie si riproduce, che i bambini si educano, che gli uomini mettono la testa a posto, eccetera, eccetera. E che fa accettare alle donne i doppi turni di lavoro, preparare tutti i giorni la cena alle 8 credendo che sia un dovere. Non è un dovere. In questo caso citiamo l'UDI, Unione Donne in Italia. E a sottoporsi, non da ultimo, ad ogni forma di tortura fisica che deturpa i corpi e che passa per essere cura estetica. Le intimidazioni, che come ha detto meglio di noi Edrin Rich, passano per gli stupri, la prostituzione, il lenocinio, la pornografia, la tratta delle bianche e delle nere, i femminicidi in famiglia e fuori. I benpensanti occidentali, quelli sì, fascisti dentro e fuori, dicono che le donne, per esempio in Italia, sono libere di scegliere di usare il loro bel corpo per fare le veline, le letterine, le escortine e via dicendo. Allora, come lesbiche, ribadiamo il concetto che noi siamo fuori da tutti questi schemi e da tutte queste mistiche, naturalmente contro la famiglia, naturalmente contro l'omologazione, naturalmente contro la massificazione, e non ci importa di dire quanto sia naturale e biologico fare queste affermazioni. Ribadiamo che siamo antifasciste nel DNA, perché i fascismi sono pericolosi e la faccia brutale del patriarcato ci piace ancora meno. Questo il documento che Lucilla ha appunto letto per noi al convegno di Azione Gay e Lesbica, un documento che è stato appunto condiviso da tutte le compagne del CLR. Caterina ci fa grandi cenni perché purtroppo stiamo per sforare, del resto anche Lucilla vedo che si sta trasformando, le sta venendo in zucca, mi sto trasformando sta in zucca. Venendo una coda strana a tirabuscio e comincia a grugnire, quindi la suina è fra di noi. Manderemo la sigla degli appuntamenti e molto rapide e poi ci salutiamo. Gli appuntamenti. Allora, il primo appuntamento di cui vi vogliamo parlare è la manifestazione del 28 novembre che si terrà a Roma e che è contro la violenza maschile sulle donne. Non possiamo leggervi dai nostri documenti ne abbiamo fatti ben due, perché questa manifestazione è un po' ostica, come dire, nel senso che noi abbiamo aderito ma con qualche riserva, però vi diciamo di venire, di intervenire alla manifestazione. E questo è il 28 novembre al pomeriggio, come al solito, poi il percorso verrà comunicato. L'altra invece che vi vogliamo dire, ed è un'iniziativa che facciamo il Centro Femminista Separatista e l'Area Cultura della Casa Internazionale delle Donne, alla presentazione del libro Stop Movie, l'ingrato compito di vivere al passato di Cristina Zanetti, che sarà lo stesso sabato 28 novembre alle ore 19, quindi a manifestazione finita, venite alla Casa Internazionale delle Donne, perché alla Sala Simonetta Tosi della Casa Internazionale si terrà questa presentazione e sarà ospite presente l'autrice. Il libro è molto bello, noi l'abbiamo letto e lo consigliamo, probabilmente riusciremo ad avere anche alcune copie dall'editore e quindi potrai anche essere preso. Acquistato da chi volesse. L'ultima cosa è che da quello che abbiamo capito le compagne delle cinque giornate lesbiche che si terranno a giugno 2010, la prima settimana, nello sforzo di autofinanziamento, proprio per quell'occasione faranno una cena alla Casa Internazionale delle Donne ancora una volta il 28. Quindi il 28 preparatevi, riposatevi il giorno prima, la mattina alzatevi tardi, venite in massa alla manifestazione, alla presentazione del libro e poi alla cena di autofinanziamento per le 5 giornate lesbiche. Ciao, alla prossima settimana risentirete queste belle notizie. Non saremo in diretta, ma saremo in differita. Va bene? Baci e abbracci. Abbracci da tutte noi. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.